Wolf Trips, i viaggi del lupo. Siamo pronti per una nuova puntata di Wolf Trips. Oggi è il 19 maggio, venerdì, e io sono Domenico Biancardi alla regia di Wolf Trips. Oggi inizieremo il nostro viaggio come al solito tra la musica soul, funky, elettronica, e in più avremo anche un ospite particolare che farà un bel DJ set live. Vi consiglio di guardarlo sulla webcam. Non vi svelo altro per il momento, iniziamo subito ad ascoltare il primo brano di oggi. Loro sono italianissimi, di Udine, il gruppo si chiama Fare Soldi, loro si chiamano Luca Carniful e Santana Pasta, dei nomi molto, molto strani, molto particolari, e il brano si chiama Carli Carli. E loro sono Fare Soldi, diciamo che sono italiani, di Udine precisamente. Cercherò di contattarli nelle prossime puntate, così magari riusciamo anche a intervistarli. Il genere elettrofunky, loro lavorano per etichette molto importanti, tipo la Kitsune. E in sottofondo abbiamo invece già il brano di Vince Stapler, un altro brano novità di Wolf Trips, e lui è di Long Beach. Andiamo ad ascoltarlo con Back Back. This is for my future baby mama, hope your skin is black as midnight. I'll take you out there, honey, I can put you in the bins. I can balance out your chakras, fornication is a sin. We can fuck all night regardless of our father, all in heaven. As I pray for new McLarens, pray the police don't come blow me down. Cause of my complexion, everybody think they know me now. Cause I'm chicken checking, negro, you and I'm a homie. How dare you think it's different, boy, you tripping. Gas break, you dip the cash game, I flip the stack, yeah, yeah, stack, yeah. It's so sad, religious, don't ask the young boy, yeah, we are floating on the beyonds. Going till they take my brown and out them CDC yards. Prison system broken, racial war commotion. Until the president get dashy, Vincent won't be voting. We need to meet position equals in that Oval Office. Obama ain't enough for me, we only getting started. The next Bill Gates can be on Section 8 up in the projects. So till they love my dark skin, bitch, I'm going all in. Cash break, you dip, the cash came, I flip the stack, yeah, yeah, stack, yeah. The silly, so sad, religious, don't ask the chat and don't ask the bitches back, back the trippin'. They found it. Depth close to 3,230 feet. A deep dive. Clap your hands, you could probably save a profile. You ain't gotta worry, don't be scary, cause we own now. Ain't no gentrifying us, we finna buy the hotel. Tell the world to sit to suck a dick, cause we own now. We own now. Tell the 1% to suck a dick because we own now. Tell the government to suck a dick because we own now. Tell the president to suck a dick because we own now. We own now. We own now. Tell the 1% to suck a dick because we own now. E siamo già virati sull'elettro rap. Prima avevamo ascoltato un brano elettro funky, adesso siamo sull'elettro rap. E continuiamo ancora su questo andazzo con il brano di Day, che abbiamo già ascoltato molte volte, ma ve lo ripropongo perché mi piace veramente molto. E il brano si intitola You Right. E loro sono di Los Angeles, California, quindi oggi siamo un po' sugli Stati Uniti. E estratto dall'album Iena. Fuck up what you asking for, put your back on me like. But this shit, your man still back a homie, ain't that important like. You ain't really seen it like that before, it's not like that before, you like. When you put it like that, like that, like that, like that, you right. Nigga think you got it like that, when I act like that, alright. I'm about to have to backtrack, backtrack, back on track, you right. You right, you right, you right, you right. Already know what you want, bitch, why you keep hitting my phone? Mm-hmm. Fuck with a nigga before, just wait till I get in my zone. Mm-hmm. Fuck all the silly talk, mama told me never hit it wrong. Mm-hmm. Certain shit a nigga pick up on, you cannot trick me, the jig is up. Level up, bitch, like, evidently you dumb. No, the boy ain't no chump, real nigga don't say nothing. I'ma roll up my skunk, then I burst up like dumb. When your nigga gon' give up, keep it real, girl, quit fun. When you put it like that, like that, like that, like that, you right. Mm-hmm. Nigga think you got it like that when I act like that, alright. Mm-hmm. I'm about to have to backtrack, backtrack, back on track, you right. Mm-hmm. You right, you right, you right, you right, you right. Never ever give a bitch a clue what you really tryna get into. Mm-hmm. Both the friends wanna come with me, telling good things always coming through. Mm-hmm. Can't let you walk out the door till you show me what that pussy hitting for. Not tryna fuck up the vibe, but you got me out by a quarter to five. Oh. Say that she feeling my aura, but never been with a nigga from Aurora. Look like she El Salvadorian. Beats like she working so far. Everything going accordingly until she started feeling too important. I couldn't do nothing for her. Before shorty left out the door, she said, when you put it like that, like that, like that, like that, you right. Mm-hmm. Nigga think you got it like that when I act like that, alright. Mm-hmm. I'm about to have to backtrack, backtrack, back on fact, you right. You right, you right, you right, you right, yeah. When you put it like that, like that, like that, like that, you right. Mm-hmm. Nigga think you got it like that when I act like that, alright. Mm-hmm. I'm about to have to backtrack, backtrack, back on fact, you right. Mm-hmm. You right. You right, you right, you right, yeah. E loro sono i Day con You Right. Tanto sentiamo nel sottofondo il nostro DJ che si sta preparando, dopo ve lo presento bene. Anche se lui è un po' restio a parlare, ma dopo vedremo almeno di tirargli fuori qualche parolina. Loro, dicevo, sono i Day di Los Angeles, sono un duo, si chiamano Dante John e Drew Law, e vengono proprio dalla California e producono questo rap elettronico. Continuiamo il nostro viaggio continuando a salire un po' di ritmo, di BPM, di anche di genere, e adesso ci spostiamo un po' sull'alternative indie, che è un genere nuovo tra virgolette, che ha fatto delle produzioni molto strane, molto particolari, dove mischiano molti generi. Lui è Nombe con Freak Like Me.

Wolf Trips. Wolf Trips. I viaggi del... Sono gli Slumberjack, l'abbiamo ascoltati con questo brano molto particolare, a me piace molto, si chiama Afraid, Unafraid. E adesso niente, continuiamo con la nostra musica di oggi. Abbiamo una sorpresa per stasera, lui è Tito Giante. Saluta dai un po' tutti, dai, almeno fatti sentire la tua voce. Saluto tutti gli ascoltatori. Dai, almeno quello. E niente, inizierà tra poco il suo DJ set. Che musica metterai? Musica dance commerciale anni 90. Perfetto, quindi diciamo che siamo in linea con quello che proponiamo di solito, magari un po' diverso da quello che ci abbiamo in radio, ma va bene, ci piace così. Andiamo ad ascoltare adesso il prossimo brano, che è un brano che abbiamo già ascoltato con SNBRN, Show Me. volume, desk, desk. Step to I am a young black South American. Mano a mano, I talk to God. Ladies, sit on me, take away from my eye. If you're down, I feel like a buckle of glass. Put your hands in the air with my solution on the breath. You and him, I blew out of the gun. Not a hustler, but even call me your brother. I can't stand it no more, no, no, no. That can be said, lung cancer. It's what we break you and you don't get when you're old. Using coke and dope that you get told. The fuck lines trying to get in your ass is mine. So now I compete, hip hop compound with soul and funk. You don't like it, you better hit the brick funk. E siamo tornati in onda con Wolf Trips. Questo qua era il mixato di DJ Tito Giante, giusto? Sì. Tinto Giante, caspita, è vero che io sbaglio sempre. E ha fatto un bel mix anni 90, possiamo dire anche un po' funky, non so come, dance, come lo... dance, bravo, no, dance non è funky. Commerciale. Ok, ok. Che sarà la musica che poi troveremo domani sera al Bar Giardino di Gallarate. Che farai proprio una serata sì, Piazza con Piazza Risorgimento 10. Piazza Risorgimento 10 e dice, diciamo, farai proprio una serata con sì, i vinili. Sì, tutti i vinili e musica. Quindi una bella commerciale. Una bella serata, dai, una bella serata. E non lo dalle so, 22. Dalle 22. Infatti io verrò sicuramente a trovarti perché è un genere che a me piace, devo dirti la verità, quindi ci sta, ci sta. Ma ti volevo chiedere, ma poi metterai anche qualcosa di un po' più, sai, anni 90 magari c'era anche un po' più roba più aggressiva. Sì. Giustamente, questa secondo me per radio era perfetta, sì, mi sì, è piaciuta sì, tantissimo. Diciamo che parto un po' così con i primi pezzi anni 90. Sì? Fino ad arrivare qualche pezzo un po' aggressive, techno, lo mettiamo. Che so, tipo un James Brown is dead. Sì, sì, c'è. Ok, quindi quello, un po' di zanzarismo. Sì, ecco. Un paio di quelli li inseriamo, non voglio metterli in sequenza perché magari poi. Però un paio li inseriamo. Va bene, va bene. Comunque, dopo ti chiederò di darmi un po' la lista dei brani che hai messo perché mi interessa anche sapere un po' quello che abbiamo messo. Quindi ci vediamo domani sera con DJ Tinto Giante, non Tito Giante, al Bar Giardino a Gallarate, dalle 22. Allora. Dalle 22. E niente, adesso concludiamo con l'ultimo brano di Wolf Trips e speriamo di risentirci magari più avanti con un altro mix. Mega mix. Che abbiamo avuto un po' di problemi tecnici, devo dire la verità, anche perché è stata la prima volta che organizzavamo un DJ set live qui in radio. E vabbè, però devo dirti la verità, insomma, è riuscita. No, no, è riuscita molto bene, a me è piaciuto molto. Allora, ti saluto e ci sentiamo domani. Perfetto. Adesso andiamo ad ascoltarci l'ultimo brano di oggi. I'm on now with my back in the day I used to say back in the day I used to say back in the day I used to say back in the day I used to say take it all. Ain't no way I could break it off. Girl, is you really down to pay the cost? Reverse the role that you can play the boss. Already know I'm a, already know I'm my vision is faded. I try to evade it but can't. I know you far from a saint, but I keep lying to me, cause I've been dying to me. And it felt like I followed you out in the street. And I promise you all that I know. Everywhere that my mind goes, elevated. Heart strong but my hair faded. Way back when we first dated. I'm gone now, had to go cause I'm on now. Baby, I can see. Baby, I can see. Baby, I can see. Take all of me. Take all of me. Take all of me. Take all of me. Cause I'm on now with my back in the day I used to say back in the day I used to say back in the day I used to say. Strips, I viaggi del lupo. E anche per questa sera siamo arrivati al termine di Wolf Trips. Ricordo che abbiamo avuto una bella giornata intensa. Abbiamo avuto un bel po' di novità, poi dopo le posterò sul profilo Facebook, sul profilo Twitter, sul profilo Instagram di Wolf Trips. E abbiamo avuto anche un bel DJ set che ovviamente posterò anche quello con i vari titoli, così sarà possibile riascoltarlo. Ricordo a tutti ancora che ci troviamo domani sera al Bar Giardino a Gallarate con il DJ set di Tinto Giante, e ci saremo anche noi di Wolf Trips. Vediamo, andremo lì a fare un po' i curiosi, a curiosare, ad ascoltare un po'. Noi ci riascoltiamo settimana prossima con un'intervista, adesso se non mi ricordo bene, a un DJ, a Fabri DJ. Settimana prossima ci sarà Fabri DJ e faremo un'intervista con lui. Lo aspetto, è un mio carissimo amico che fa il DJ da moltissimo tempo, chissà cosa ci avrà da dire. E noi ci risentiamo quindi venerdì prossimo, sempre dalle 20 alle 21. Ciao!